2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 16 novembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Potete contattarci tramite Facebook, Twitter, la nostra posta elettronica 2024@radio24.it. Continuo a dire a molti dei nostri ascoltatori che ci scrivono via Twitter: usate la posta elettronica perché magari avete la possibilità di usare qualche parola in più per spiegarvi bene e magari anche noi possiamo rispondervi in modo più dettagliato, mica in 140 caratteri. Twitter è utilissimo, è molto bello, molto intelligente per tante cose, ma magari per spiegare alcuni concetti no. C'è molto dibattito, critiche accese, difese del regolamento, della bozza di regolamento dell'AGCOM relativo alla protezione del diritto d'autore. Vi invito a seguire questo dibattito su internet, in molti se ne stanno occupando. Noi, devo dire, nelle ultime settimane non abbiamo sentito alcuno dei protagonisti, magari sarà una cosa da fare per le prossime settimane. È un argomento molto complicato, ma sicuramente le critiche, le osservazioni fatte alla bozza di regolamento dell'AGCOM sono per molti versi condivisibili. C'è effettivamente un pericolo che questa autorità venga investita di poteri tipici della magistratura, che quindi possa intervenire laddove uno alza la mano e dice il mio diritto d'autore è stato violato. Di solito si va in tribunale. Certo, i tempi della rete internet non sono i tempi dei tribunali, e questo effettivamente è un problema. Quindi vi invito ad approfondire e a farvi una idea su questo dibattito. Ci sono state alcune prese di posizione, alcune notizie interessanti anche relative alla costruzione di una nuova rete in banda larga, in fibra ottica per il nostro paese. Anche di questo argomento riprenderemo a parlare, visto che da un po' che, certo, la settimana scorsa abbiamo fatto un po' di approfondimento, ma raccoglieremo alcuni pareri e alcune proposte che sono state fatte per cercare di, non dico accelerare, perché già non si sta muovendo nulla, quindi qua c'è poco da accelerare, diciamo far partire qualche cosa nel nostro paese per la diffusione della fibra ottica. Fibra ottica che è presente in molti posti perché le pubbliche amministrazioni a livello locale hanno investito, ma in molti casi questa fibra ottica non viene sufficientemente messa poi a disposizione della cittadinanza. Ci sono paesi attraversati dalla fibra ottica, ma uno abita davanti alla fibra ottica e poi non la può utilizzare. Argomento sicuramente anche in questo caso non di facile soluzione. Sicuramente una proposta che è stata lanciata dall'ANCI Toscana è molto interessante, cioè partire a livello locale per consolidare tutte le aziende ex municipalizzate che a vario titolo gestiscono varie reti in fibra ottica, per fare innanzitutto un po' d'ordine e poi per cercare di partire a livello locale per fornire connettività, ripetiamo spesso, soprattutto alle aziende che ne hanno e ne avranno sempre più bisogno. Tutto ciò visto che a livello nazionale non sta succedendo nulla e per molto tempo non succederà nulla, perché naturalmente un progetto nazionale richiede l'accordo di molti player e la cosa non è certo facile. Probabilmente a livello locale, a livello regionale, la cosa è molto più rapida, almeno partendo da alcune aree industriali, alcune aree molto precise. Magari parleremo anche con ANCI Toscana per sapere di preciso da dove nasce questa proposta, ripeto, condivisibile e molto interessante. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da alcuni numeri. Secondo Gartner, le vendite di telefoni cellulari nel mondo sono cresciute nel terzo trimestre dell'anno del 5,7% a quota 455 milioni di unità. Pensate, in soli tre mesi si vendono più di 450 milioni di telefonini, tra telefonini e smartphone. E a proposito di smartphone, pensate che oramai questo segmento vale il 55% del mercato, vale a dire 250 milioni di pezzi, con una crescita del 46% anno su anno. Samsung è il principale produttore di smartphone con una quota del 32%, seguito dalla Apple 12%. poi c'è Lenovo 5%, LG e Huawei quasi il 5%. Continuano a salire in termini di quota di mercato le vendite dei produttori cinesi. Se consideriamo tutta la telefonia mobile, quindi non solo smartphone ma anche i normali telefonini, dietro a Samsung il secondo produttore è ancora Nokia. Per quanto riguarda i sistemi operativi, Android è salito all'82%, Apple iOS al 12%, Windows Phone sale di molto, ma visto che la quota di mercato era ancora molto bassa, è arrivato al 3,6%. Digital News. A proposito di numeri, Ericsson ha presentato il Mobility Report. Ci sono un sacco di dati relativi alla telefonia mobile. Quello che spicca, oltre alle previsioni per i prossimi 5-6 anni, è che nel terzo trimestre di quest'anno le connessioni mobili, quindi le SIM attive, sono 6,6 miliardi, utilizzate da 4,5 miliardi di persone, quindi vuol dire che alcune persone hanno più di un terminale, ma naturalmente insomma, lo vediamo nell'esperienza di tutti i giorni, o uno ha due telefoni, oppure ha un telefono o un tablet con una SIM interna. Da queste 6,6 miliardi di SIM attive non sono conteggiate tutte quelle, e sono molte, cosiddette machine to machine, quindi ad esempio una macchina che all'interno ha un piccolo modem per mandare segnalazioni via rete mobile. Anche Google, attraverso Google Play, permette di comprare e noleggiare film via internet in Italia. Il servizio si aggiunge a quelli già esistenti nel nostro mercato, come Kubo Vision di Telecom Italia, Chili TV, Xbox di Microsoft, il servizio di Sony e iTunes. Tutti permettono di noleggiare o comprare film online. Il tutto in attesa del lancio delle piattaforme di video on demand di Mediaset all'inizio di dicembre, c'è molta attesa, e anche Sky che sta preparando il lancio della propria piattaforma svincolata dal classico servizio per la prossima primavera. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea pubblicherà entro fine mese le linee guida che consentiranno di tenere accesi smartphone e tablet sugli aerei anche in fase di rullaggio, decollo e atterraggio, dopo aver naturalmente selezionato la modalità aereo. La novità dovrebbe quindi entrare nell'uso quotidiano da dicembre, poi ne parleremo in modo più approfondito. Le autorità europee hanno deciso di rendere possibili anche connessioni 3G e 4G a bordo degli aerei. Sapete che alcuni aerei hanno la possibilità di utilizzare il GSM con un'antenna a bordo, molti hanno anche il Wi-Fi a bordo, soprattutto sulle tratte internazionali o negli Stati Uniti. In questo caso c'è stata una concessione, quindi un'estensione delle connessioni anche al 3G e al 4G. Il prossimo anno IBM metterà a disposizione online la potenza di calcolo e le capacità di Watson, il supercomputer che capisce il linguaggio naturale, diventato famoso nel 2011 quando riuscì a sconfiggere i concorrenti di un videogame. Quindi si tratta di un servizio erogato via internet, cosiddetto in the cloud. E sempre a proposito di servizi online, una notizia interessante è che Deutsche Telekom, l'operatore tedesco, ha annunciato che nel 2014 fornirà alle piccole e medie imprese un servizio internet che garantirà sicurezza e privacy in modo molto forte. L'offerta si rivolge quindi a tutte quelle imprese che, naturalmente sono moltissime, non hanno i soldi per comprare soluzioni di sicurezza molto complesse in un mercato della security che diventa sempre più pericoloso e sempre più complicato, quindi ben venga questo servizio. Ricordiamo che in Italia un servizio del genere è già stato attivato sulla rete di Vodafone dall'operatore britannico che appunto si chiama Rete Sicura. Abbiamo altri numeri, ci sono sempre un sacco di numeri che descrivono cosa succede sulla rete internet, ma naturalmente poi dai numeri si capiscono molte cose. Abbiamo parlato con Fabrizio Angelini, che è fondatore di Sensemakers e rappresenta in Italia Comscore. Comscore è una delle società che misurano la rete internet e tutto quello che accade a vario titolo sulla rete internet, quindi ci sono decine, centinaia di dati e di numeri. Noi naturalmente abbiamo chiesto un riassunto per capire, ad esempio, quante sono, questo è un dato importante e interessante, quante sono le persone che si collegano alla rete internet in Italia, perché naturalmente se ampliamo il bacino di chi si connette alla rete internet e utilizza internet, capisce quali sono i vantaggi della rete internet, possiamo pensare di ampliare ad esempio il bacino dei cittadini, e sono solo 9 milioni che interagiscono con la pubblica amministrazione in Italia, e ne avremmo un gran bisogno per risparmiare, per rendere più efficiente il sistema. Oppure potremmo aumentare il business di tutti quelli che si occupano di commercio elettronico, e tra poco parleremo ad esempio di e-commerce. Fabrizio Angelini. Ad oggi ci sono, dalle nostre ultime rilevazioni, quindi l'ultimo dato disponibile è quello di settembre, circa 32 milioni di italiani che si collegano mensilmente da PC. Questo è un trend che noi vediamo ormai in maniera stabile, perché la crescita è soprattutto nelle connessioni da dispositivi mobili, quindi da telefonini, da smartphone e da tablet. Fenomeno che chiaramente è riscontrabile in tutto il mondo. C'è un falso, come dire, mito. Abbiamo sempre considerato l'Italia abbastanza all'avanguardia, soprattutto in termini di penetrazione di smartphone e di cellulari. Ormai il nostro livello di penetrazione è assolutamente equiparabile a quello degli altri paesi europei, e quindi siamo assolutamente omogenei rispetto a quello che sta accadendo sugli altri paesi europei. C'è sicuramente l'altro fenomeno emergente, importante, è il grandissimo consumo di video online. Diciamo che il paradigma di comunicazione, come tutti sanno, su internet si sta spostando da un linguaggio prettamente testuale a un linguaggio per immagine e per video. Oggi ci sono 28 milioni di italiani, quindi una grandissima maggioranza di quelli che sono connessi in rete e che guardano video online. Ce ne sono ben 12 milioni che lo fanno attraverso lo smartphone. E questo è un panorama interessante e fortunatamente in crescita, quindi ci sono sempre più persone che a vario titolo si collegano alla rete internet. Poi bisognerebbe anche sapere che cosa ci fanno con questa rete, perché a volte molti fanno cose molto interessanti e molto utili, ci sono anche molte persone che sprecano tempo in internet, e di modi per sprecare il tempo ce ne sono moltissimi, ma qui come al solito serve educazione in generale, serve educazione, ma serve anche alfabetizzazione digitale, tecnologica. Adesso parliamo di commercio elettronico, partendo da un dato, da un altro dato. In questa puntata ci sono un sacco di numeri, quindi ormai non ci tiriamo più indietro. Allora, 14 milioni sono le persone in Italia che fanno acquisti online. Sono cresciute di circa 2 milioni nell'ultimo anno, ma è tutto il sistema dell'e-commerce che continua a crescere. Ne abbiamo parlato con il professor Alessandro Perego, che è il responsabile dell'osservatorio e-commerce B2C, quindi business to consumer, mercato destinato ai consumatori finali, realizzato da Netcom e dalla School of Management del Politecnico di Milano. Il professor Alessandro Perego insegna appunto al Politecnico di Milano. Il commercio elettronico in Italia vale circa 11,3 miliardi di euro nel 2013 come vendite da parte di operatori del commercio elettronico che hanno una sede operativa in Italia, con una crescita del 18% rispetto all'anno 2012. Una crescita che si concentra in alcuni settori principalmente. I settori che vanno meglio sono l'abbigliamento, che cresce di oltre il 30%, continuano ad andare bene l'informatica e l'elettronica, va bene anche il turismo. Noi nel turismo includiamo la componente principale, è la bigliettazione, trasporti aereo, ferroviario, però vanno bene anche le prenotazioni alberghiere. Questa parte relativa ai biglietti, al turismo, è ancora oggi una delle componenti principali? Sì, vale per oltre il 40% del valore complessivo delle vendite da commercio elettronico, e in leggera riduzione negli anni, era più o meno il 50% qualche anno fa, si sta un po' riducendo a favore delle vendite di prodotti. Ho già detto l'abbigliamento, ho già detto l'informatica e l'elettronica, però stanno finalmente arrivando online offerte interessanti, quindi distributori che offrono, retailer che offrono prodotti che fino a ieri erano assenti. Quest'anno è scesa in campo IKEA con l'online in Italia, per fare un esempio di un settore, l'arredamento, dove c'è ancora una carenza, un po' di carenza di offerta. Però anche tutto il tema dell'home design, per esempio, sta entrando online. Il fashion in generale è già sceso negli anni, però sta continuando ulteriormente ad aumentare l'offerta in queste categorie. E sta anche crescendo molto il mondo del couponing non solo di servizi ma anche di prodotti. Che sarebbe? Couponing intendiamo sostanzialmente quel fenomeno per cui si offre online la possibilità di acquistare dei servizi o dei prodotti a sconto in una determinata giornata o per un determinato periodo. Noi stiamo parlando di commercio elettronico di operatori che hanno sede in Italia, quindi che operano sul mercato italiano e vendono sul mercato italiano, quindi non stiamo parlando di quel fenomeno che si dice da tanto tempo di aziende italiane che colgono delle opportunità per esportare prodotti, giusto? No, in realtà nell'11,3 miliardi di euro è compresa anche una quota di export che vale circa 2 miliardi nel 2013, quindi sono aziende, diciamo così, italiane o con sede operativa in Italia che esportano all'estero. Essenzialmente lo fanno in aziende di due categorie, ancora il turismo, quindi pensiamo per l'appunto alle prenotazioni alberghiere o alla vendita di biglietti, quindi il fenomeno per cui esistono dei siti che rendono disponibili delle offerte alberghiere in Italia a turisti stranieri, e poi nel mondo dell'abbigliamento. Quindi è chiaro che le principali case moda sono evidentemente depositarie di prodotti che vanno fortissimamente all'estero. Quindi queste due categorie realizzano un export di e-commerce pari a 2 miliardi di euro. Questo è molto interessante perché si dice spesso che, ma questa è la mia successiva domanda, è vero che l'e-commerce rappresenta una buona opportunità per aziende italiane che hanno prodotti molto portati all'export? L'affermazione è vera, ma non da banalizzare. Quindi l'affermazione è vera perché i 2 miliardi di euro dimostrano che c'è una potenzialità nel turismo, in questo caso, nell'abbigliamento prevalentemente, ma c'è anche una componente, diciamo così, di made in Italy, di altre merceologie. È anche vero che non è semplice farlo, cioè per farlo occorre avere un prodotto interessante, ma anche una strategia di commercio elettronico adeguata. Per cui un conto sono le grandi aziende, alla Yux per capirci, o alle principali case moda che hanno un marchio, un brand riconosciuto, un'altra cosa è essere una piccola media impresa. In questo secondo caso bisogna essere capaci di appoggiarsi ai cosiddetti aggregatori, cioè a soggetti che sono capaci di portare un'offerta in maniera credibile in rete. Aggregatori possono essere il Venere, per esempio, che si occupa di prenotazioni alberghiere e quindi porta online gli alberghi, come possono essere eBay o Amazon, che sono capaci, che hanno anche al loro interno i cosiddetti marketplace, cioè dei luoghi dove mettono a disposizione l'offerta di piccole e medie imprese. Yux, lo ricordiamo, è italiana, nonostante il nome. Ma a proposito di crescita, quindi tornando ai dati generali, la componente di player stranieri che negli ultimi anni è entrata in modo determinante sul nostro mercato, che tipo di contributo dà a questa crescita del più di 18%? Beh, in realtà la crescita legata a operatori stranieri che sono entrati in Italia è intanto un bel segnale, perché significa che il mercato italiano è riconosciuto finalmente come un mercato importante. Dice anche che per fare commercio elettronico in un paese bisogna entrarci, quindi c'è anche una componente locale. Il commercio elettronico, che pure è un fenomeno globale, richiede una localizzazione. E questo è un altro fatto estremamente interessante. Peraltro, la maggior parte dei player italiani che fa commercio elettronico, certo riconosce in quei player un concorrente potente, ma riconosce anche che sono dei player che contribuiscono alla costruzione di un mercato. Ricordiamo che il commercio elettronico in Italia rappresenta pur sempre ancora il 3% del totale del commercio, mentre in altri paesi, facciamo gli esempi del UK o del Giappone, il tasso di penetrazione è già al 14%, quindi c'è evidentemente una potenzialità davanti di costruzione di un mercato non indifferente. E quindi i player italiani riconoscono a questi player stranieri anche un contributo nel senso di costruire la mentalità e un'offerta tale da portare il consumatore italiano verso questo nuovo canale. Che cosa ci divide da questo questo 14% di quota sul mercato generale, che è una percentuale molto alta? Allora, noi riteniamo che i fattori siano diversi, però come da ormai tanti anni diciamo, c'è un problema in Italia di non presenza o presenza non adeguata del retailer tradizionale, cioè della distribuzione moderna tradizionale. Basti questo dato a far capire la situazione. Se prendiamo i primi 10 operatori di commercio elettronico di prodotti in UK o in altri paesi, altri mercati evoluti come gli Stati Uniti, tra questi 10 troviamo 7 retailer tradizionali e 3 aziende, chiamiamole .com, cioè aziende che operano solo su internet. In Italia è il contrario, tra i primi 10 troviamo 7 aziende, chiamiamole .com, e 3 soli retailer tradizionali. La distribuzione moderna in Italia deve ancora capire per buona parte, ovviamente, non voglio generalizzare, deve ancora capire come coniugare il canale online con il canale fisico in una logica di multicanalità. Ecco, a proposito di multicanalità, che cosa intendiamo oggi per multicanalità? Allora, intanto la parola multicanalità non significa solo mettere insieme in modo separato diversi canali, significa essere capaci di integrare i diversi canali in un'unica esperienza di acquisto che per il consumatore finale deve essere quasi indifferenziata. Il consumatore finale non si pone il problema del canale, deve poter saltare da un canale all'altro come preferisce, dal mobile al negozio fisico, al PC, al tablet, alla televisione in prospettiva. Gli esempi più interessanti di multicanalità che riguardano la distribuzione moderna sono ad esempio le situazioni in cui uno acquista per esempio con il mobile o con il PC ma ritira sul punto vendita, oppure può consegnare il reso sul punto vendita, oppure si reca sul punto vendita, vede un prodotto che gli piace di cui però non c'è la taglia o il colore giusto o di cui non c'è esattamente il prodotto a scorta sul punto vendita e gli viene consegnato direttamente a casa. Sono esempi interessanti che coniugano il canale fisico con il canale online. Che non sono facili da realizzare, però già se uno lo capisce già ad un buon punto. A proposito di mobile, quindi di acquisto da smartphone o da tablet, ho visto dai dati che voi avete presentato che sta crescendo molto e rappresenta già una buona percentuale. Visto che mi stupisce il fatto che uno compri, già mi stupisce il fatto che uno compri abbigliamento online, ma questo insomma ormai capisco che è un fenomeno molto importante e in crescita, ma mi stupisce che uno compri abbigliamento da uno smartphone. La cosa interessante è che, quindi, intanto il fenomeno mobile sta crescendo a ritmi vertiginosi, quindi del 11,3 miliardi di euro 500 milioni sono acquisti da mobile nel 2013, erano 150 nel 2012, quindi più 250%. Un altro miliardo sono acquisti da tablet, quindi sono la somma dei due, 1,5 miliardi, è già una percentuale importante dell'e-commerce e in crescita impetuosa. La cosa interessante è che, per rispondere alla tua domanda, è che la maggior parte, comunque una quota rilevante degli acquisti di abbigliamento, proprio di abbigliamento, si fanno via mobile, in particolare nel modello di business che si chiama quello delle flash sales, cioè delle vendite che hanno una certa finestra temporale per poter essere effettuate, magari qualche giorno. In quel caso si coglie proprio il valore del mobile, cioè il poter partecipare a una flash sale avendo poco tempo a disposizione e utilizzando magari l'orario degli spostamenti al mattino o alla sera. Quindi proprio nell'ambito delle flash sales l'incidenza del mobile assume delle proporzioni vertiginose, 30, 40, 50% degli acquisti sono fatti via mobile. Percentuali molto alte valgono anche per eBay, quindi un po' il fenomeno delle aste e cose del genere, perché lì è un altro ambito in cui conta il fattore tempo. Stiamo anche verificando però che questa crescita del mobile è legata in generale al fatto che l'usabilità dei siti dedicati al dispositivo mobile o anche al tablet sta migliorando significativamente e quindi da un certo punto di vista diventa semplice comprare anche dal mobile quasi come uno stesse comprando dal PC. Abbiamo già citato alcune volte che acquistando online si risparmia, comunque una delle motivazioni è quella del costo. In generale quali sono i motivi per cui spingono le persone ad acquistare online? Hai detto benissimo, in realtà c'è poco da fare, il prezzo rimane uno dei fattori chiave. D'altra parte le nostre indagini rivelano proprio che c'è una percentuale di riduzione prezzo significativa nei principali comparti, nell'informatica, nell'elettronica, nell'abbigliamento, nei libri. C'è sempre una convenienza di prezzo importante. Tutto il fenomeno delle flash sale, l'abbiamo appena detto, lì sono prodotti della stagione, tipicamente prodotti di abbigliamento della stagione precedente che vengono offerti a prezzi estremamente competitivi. Il fenomeno del couponing è per l'appunto un fenomeno in cui si colgono degli sconti importanti. Quindi la leva prezzo è sicuramente importante. La seconda leva è l'ampiezza di gamma. Abbiamo anche qui verificato che l'ampiezza di gamma offerta online è incomparabile. Cioè è comparabile, ma i fattori di comparazione sono 3 a 1, 5 a 1, 10 a 1 tra la gamma offerta online e la gamma presente nei negozi fisici. Questo vale ancora nell'abbigliamento, vale ancora nell'ambito dei libri, vale ancora nell'ambito dell'informatica e l'elettronica. C'è qualcosa che vi ha particolarmente sorpreso nell'indagine che avete presentato quest'anno, tra tanti dati, tanti numeri, tante dinamiche? Ma direi che la cosa che a me continua a sorprendere è il fatto che le principali categorie merceologiche che di fatto una famiglia compra, che sono il cibo e sono l'abbigliamento non moda, l'abbigliamento più di basso livello. La somma di queste due categorie merceologiche farà 200 miliardi di euro di spesa delle famiglie. Ecco, queste categorie merceologiche sono poco vendute e poco acquistate online in Italia. E questo evidentemente è un dato che continua un po' a stupirci, anche perché all'estero, in altri paesi, questo non è più vero. Il paniere dell'acquistato di e-commerce in altri mercati, anche europei e tutto sommato non troppo dissimili dall'Italia, dice che invece queste categorie sono offerte e comprate. Quindi questo, diciamo così, è l'ambito nel quale ci aspettiamo tutto sommato i maggiori sviluppi, le principali novità nei prossimi anni, ed è questo anche, diciamo così, l'ambito nel quale il gap con il resto del mondo è più significativo. Ecco, a proposito dei prossimi anni, così concludiamo, che cosa possiamo aspettarci o che cosa dovrebbe accadere o anche che cosa voi prevedete che accadrà nel prossimo anno, nei prossimi anni? Ma onestamente è un po' di tempo che ce lo diciamo, ma vedendo la crescita del commercio elettronico negli ultimi 4 anni, sempre a tassi del più 18, più 20%, sembrerebbero dei tassi buoni, noi in realtà ci aspettiamo che questo tasso cresca significativamente. Io mi aspetterei, vista la distanza che ha l'Italia dagli altri paesi, viste le potenzialità del commercio elettronico, visto proprio il fatto che intere categorie merceologiche non ci sono, visto il fatto che ci sono dei player importanti che sono scesi in campo proprio in questi ultimi 2-3 anni, quindi non hanno ancora espresso il massimo della potenzialità, mi aspetterei dei tassi di crescita decisamente più significativi. D'altra parte, se noi cresciamo a un più 20%, che non è troppo dissimile da come crescono mercati ben più maturi, no, il gap, da un certo punto di vista, la distanza, cresce invece che ridursi da un punto di vista assoluto. Quindi io mi aspetterei tassi che dal 20 passano al 30, passano al 40% nei prossimi anni. E dal punto di vista, diciamo, del servizio, che ne so, consegne in giornata, certo, magari solo nelle città, però che cosa potrebbe succedere? Assolutamente, il fenomeno della riduzione dei tempi di consegna per chi vuole magari pagare un premium price. Per questo è un fenomeno che sta già avvenendo in giro per il mondo e sta già avvenendo anche in Italia. È recente l'annuncio, in questo caso da parte di Amazon, ma da parte anche di altri player, della possibilità di consegna in giornata o il giorno successivo. Ordine per le 17, consegna la mattina, per fare un esempio. Come stanno emergendo dei modelli offerti dai principali corrieri di consegna al piano, consegna al sabato, consegna la domenica, in cui si cerca di lavorare sull'ultimo miglio del commercio elettronico. Ultimo miglio è un ultimo miglio importante, perché è il momento in cui, momento di relazione fisica, se vogliamo, no, tra chi compra e chi vende, ed è un momento importante in cui si può anche realizzare, diciamo così, un problema che la non presenza sostanzialmente del ricevente, no, all'atto della consegna. Questo è un problema molto significativo anche sui margini delle aziende, perché implicano dei costi di riconsegna, eccetera. Ci sono anche modelli di, appunto, di consegna in cosiddetti pick up point o anche nei cosiddetti parcel lockers, cioè armadi in cui si può effettuare una consegna non presidiata, quindi il commerciante consegna e il ricevente ritira quando gli capita di passare da quei parcel lockers. Quindi vediamo un certo dinamismo da un punto di vista del servizio e dei modelli di servizio per quanto concerne la consegna al consumatore finale. Ci possiamo aspettare novità anche dal punto di vista dei pagamenti, visto che quello dei pagamenti è un tema che si cita spesso come uno dei problemi nella lentezza con cui cresce il commercio elettronico in Italia. Allora, intanto un dato: il 95% dei pagamenti è comunque effettuato con mezzi elettronici, quindi vuol dire con carta di credito, con PayPal o con bonifico bancario. Le frodi, cioè disconoscimento del pagamento, valgono una percentuale irrisoria, parliamo dello 0,1% del valore degli 11 miliardi di cui ho parlato in precedenza. Quindi è un fenomeno molto sotto controllo e spesso inflazionato da un punto di vista delle preoccupazioni. Un aspetto importante che in realtà potrebbe aumentare la propensione agli acquisti online e quindi al commercio elettronico in generale è la possibilità di pagare attraverso i propri strumenti di home banking, in maniera semplice ovviamente. Questo è un tipo di modello di servizio che è stato recentemente anche standardizzato, si chiama MyBank in sigla il tipo di servizio, e questo potrebbe in qualche modo incentivare molti acquirenti che preferiscono non pagare con la carta di credito ma utilizzare l'home banking di cui sono magari contenti e che usano abitualmente. Questa è la versione podcast di 2024, quella che avete sentito è un'intervista che abbiamo realizzato con il professor Alessandro Perego, che è il responsabile dell'osservatorio sul commercio elettronico realizzato da Netcom e dalla School of Management del Politecnico di Milano, ed è stato presentato proprio questa settimana, l'aggiornamento annuale presentato questa settimana. L'intervista che avete sentito è in versione integrale, disponibile solo nella versione podcast. E quindi consigliate ai vostri amici, ai vostri parenti di ascoltare la versione podcast dove ci sono contenuti aggiuntivi. Riprendiamo tra pochissimo, parleremo della voce. Noi con la voce ci facciamo la radio, altre persone la usano per lavoro, diciamo un po' tutti la usiamo per necessità, ma si possono fare cose alle quali forse oggi non abbiamo ancora pensato, ma la tecnologia ci mette a disposizione cose molto nuove e molto interessanti. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024 dedicata alla voce. Con la voce noi alla radio ci lavoriamo, ma con la voce si possono fare tantissime cose. Allora, oggi in questa seconda parte vogliamo capire che cosa oggi è possibile fare oltre a quello che conosciamo: chiamare una persona, parlare, eccetera, eccetera. Sempre più si parla anche con le macchine. Le macchine diventano sempre più brave a capire la nostra voce. Allora, vogliamo capire che cosa si può fare oggi con la nostra voce, interagendo con le macchine, e che cosa si potrà fare nei prossimi anni, che cosa la tecnologia ci permetterà di fare. Saluto Agostino Bertoldi, che è Vice President per la regione Sud Europa di Nuance. Benvenuto a 2024. Buongiorno. Voi siete un'azienda gigantesca, giusto? Quanti siete? 12.000. In tutto il mondo. Un'azienda statunitense che si occupa non solo, ma prevalentemente di voce. Che cosa fate? Lavoriamo in diversi campi, ma soprattutto lavoriamo nel settore della voce, sia nel mondo dell'healthcare, per quanto riguarda tutta la refertazione medica, quindi soprattutto negli Stati Uniti, ma sempre di più in Europa e anche in Italia. Il medico non avrà più bisogno di scrivere la propria refertazione alla fine della visita, ma dettando le proprie impressioni durante la visita, magicamente alla fine verrà fatto un referto medico. E questo è un business molto importante, perché soprattutto dove tempo e denaro, questo sì, porta dei saving notevoli. Però non registrate, fate il riconoscimento della voce. Facciamo il riconoscimento della voce, elaboriamo la voce e non solo trascriviamo, ma lo trascriviamo nel posto giusto. Quindi uomo alto 1,80 m, segni nella norma, eccetera, e viene compilato magicamente tutto perfettamente, così come se ci fosse una brava assistente che alla fine della visita facesse appunto questo tipologia di lavoro. Poi siamo nei settori del OCR, quindi tutto il trattamento documentale, che c'entra poco con la voce questa, e poi abbiamo le due divisioni, Mobile e Enterprise, dove appunto utilizziamo le nostre tecnologie per aiutare i grandi vendor a livello mondiale ad arricchire le funzionalità nei propri apparecchi. Sì. Senta, noi oggi vogliamo partire da un'evoluzione che già si comincia ad utilizzare e la cominceremo a non vedere ma sentire nei prossimi anni: la voce utilizzata anche come password. Ha fatto sicuramente molta notizia, anche se è una tecnologia di cui si parla da molti anni, l'utilizzo su uno smartphone dell'impronta digitale, e anche noi ne abbiamo parlato. Molti hanno detto: ma sicura, non è sicura, c'è chi dice, ed è vero che l'impronta digitale è sicuramente un dato biometrico interessante, verrà utilizzato molto nei prossimi anni, ma si può anche replicare. Poi, come sempre, dipende da qual è l'obiettivo, cioè probabilmente pochi hanno interesse a duplicare la mia impronta digitale, molti hanno interesse a duplicare quella magari di Barack Obama. Ma insomma, al di là di questo, che cosa significa utilizzare la voce come password? Ma la voce è sicuramente un parametro biometrico e è basato principalmente su due aspetti: gli aspetti fisici, quindi la lunghezza della trachea, la larghezza della laringe e quant'altro, e degli aspetti emozionali. Quindi la combinazione di queste due componenti, che è formata da una cinquantina di parametri, fa sì di riconoscere con certezza chi mi sta parlando, insomma. O perlomeno di capire se ha fatto un voice print inizialmente, se di comparare le due cose. Il voice print è la registrazione master, la cioè registrazione originale. Esatto, quando faccio, sì. Noi lo definiamo negli Stati Uniti enrollment, quando viene fatto l'enrollment, quella rimane la mia impronta vocale, sulla sì. quella poi vado a fare tutte le comparazioni. E grazie a questi parametri, quindi non è necessario essere sempre in perfetta forma, ma se anche quel giorno raffreddore, riesco a autentificarmi, perché comunque è uno dei parametri che mi permetterà di cambiare il suono della mia voce grazie al raffreddore, ma tutti gli altri parametri sono fisici e emozionali, e quindi rimarranno esattamente gli stessi. Quindi la combinazione di queste cose ci fa sì di dire con certezza 99.9 periodico di riconoscere la persona. Il timbro, cioè questi parametri sono unici come l'impronta digitale, come il nostro DNA. Sono unici. Dalla voce tenga presente che potremmo ricavare la lunghezza e la larghezza della trachea, della laringe, potremmo dare aspetti fisici impensabili, insomma. Solo analizzando la voce i nostri tecnici potrebbero dire aspetti fisici della persona. E non si può riprodurre? Ci sarà un modo per riprodurla? Tipicamente sì, si può riprodurre, perché banalmente uno può pensare alla registrazione. Tenga presente che non diciamo mai la stessa cosa nello stesso modo, anche se le ripetessimo un miliardo di volte. Sì, questo noi lo sappiamo bene, perché a volte mentre registriamo i pezzi per il giornale radio magari lo dobbiamo rifare e non ci viene come la volta che prima, certo. Tenga presente che è difficile, perché comunque quando uno registra ci sono delle campionature diverse, ma supponendo anche che uno arrivi a dei sofismi incredibili, paragonando tutte le voice print precedenti, quindi tutte le certificazioni che ho fatto con la voce, se ne trovo una identica, evidentemente è un segnale d'allarme. In questi casi scatta il meccanismo dinamico e non più statico, quindi in modo interattivo faccio la domandina a caso nel quale uno non può essere preparato. Quindi voi dite che si può utilizzare la voce, e poi ci spiegherà che lo state già facendo, alcune aziende nel mondo utilizzano questa tecnologia per utilizzare la voce come password. Assolutamente sì. Al posto del PIN, al posto di una password vera e propria, al posto dell'impronta digitale, eccetera. Assolutamente sì. Senta, e se io però faccio questa cosa via internet o via telefono, cioè il fatto di utilizzare la mia voce come password, poi spieghiamo anche e facciamo un esempio di come può essere utilizzata, se lo faccio via telefono o lo faccio ad esempio con un microfonino, che ne so, sul tablet o sul computer via internet, questo non cambia le cose? Assolutamente no, partendo dal presupposto che prima sono sicuro dell'identità di chi sta facendo questo enrollment. Certo. Allora adesso vi facciamo ascoltare, giusto per far capire come è possibile utilizzare questa tecnologia, una interazione fatta con una banca inventata, giusto in questo caso, Banca Sfera, una banca che vi siete inventati, poi invece spieghiamo che esiste una banca che ha già cominciato a farlo, sentiamola. Benvenuto nel servizio Banca Sfera, vedo che sta chiamando da un numero cliente, prego, mi dica la sua frase di accesso. La mia voce e la mia password. Benvenuto Enrico, come posso esserti utile? Quanto ho speso lo scorso mese? Hai speso 955,92 euro il mese scorso. Fai un bonifico. A chi vuoi inviare il bonifico? Devo pagare l'assicurazione. Dimmi l'importo. 180,75 euro. Invio un bonifico di 180,75 euro dal tuo conto corrente di oggi, ok? Sì, ok. Bene, è stato inviato. È qui. Allora, qua ci sono due componenti, cioè il riconoscimento della voce come password, quindi la macchina ha riconosciuto Enrico, e quindi che poi spieghiamo come avviene, insomma, anche il processo di autenticazione all'inizio, e poi c'è il riconoscimento di quello che viene detto, cioè la macchina capisce che lui vuole fare un bonifico piuttosto che un'altra cosa. A proposito di chi lo utilizza? Oltre a questa Banca Sfera inventata. Ma diciamo che Dobbiamo distinguere le due cose. Per quanto riguarda il mondo del biometrico, in Europa ci sono già casi abbastanza eclatanti e insomma di un certo rilievo. Mi viene da dire Barclays sicuramente è quello più significativo in questo momento. In Gran Bretagna, non in Italia. In Gran Bretagna, in Italia ancora. Ancora no. Dobbiamo definire i data privacy, come possono essere utilizzati senza appunto infrangere la privacy. C'è un po' di normativa da mettere a posto. Esatto, vabbè. Ancora un po' di normativa, ma dovremmo esserci. Okay. Insomma, dovremmo esserci. Quindi cosa fa Barclays? Barclays aveva un problema nel riconoscimento dei propri clienti. Ogni volta che chiamavano dovevano autentificarli attraverso una serie di domande. Quindi quando è nato, il suo nome e cognome, la sua frase indimenticabile, ed era un processo lunghissimo e i clienti erano abbastanza scontenti e quindi tipicamente si pensava di ridurre queste domande per non infastidirli, e questo esponeva sicuramente dei rischi di truffe, insomma, perché di possesso di identità false o perlomeno di scambio di persone. Sì. Loro hanno deciso di utilizzare la tecnologia per riconoscere appunto con chi stavo parlando, togliendo sia il fastidio della gente di dover chiedere tutti questi dati, sia il fastidio del cliente di doverli ripetere ogni volta, insomma. Anche perché uno può fare delle operazioni di mobilità e magari è di fianco delle persone, insomma. Sì, non vuole dire certe cose, certo, ecco, certo. Quindi adesso cosa succede? Oggi succede che la conversazione naturale, io do per assodato che quel cliente sia quel cliente, durante i convenevoli diciamo buongiorno signor Rossi, con attraverso pochi secondi di conversazione di benvenuto eccetera, o come posso aiutarla, sì. Insomma, attraverso le prime fasi l'agente all'interno della banca ha sul suo screen autentificazione avvenuta, quindi green light, procedi, quindi, abbiamo identificato la persona. Quindi diciamo il sistema della banca, utilizzando questa tecnologia, questa vostra tecnologia, riconosce la voce che viene utilizzata come password e dice guarda che quello che hai davanti effettivamente è Enrico Pagliarini che sta chiamando. Cioè. Esatto, e quindi a questo modo la gente può procedere a fare tutte le operazioni necessarie senza aver infastidito il cliente. Al cliente non viene il dubbio del come fa la banca a capire che io sto chiamando, dopo che mi ha detto buongiorno mi dice ah ma lei è Enrico Pagliarini. No, ma perché vengono sicuramente informati che c'è a disposizione questo nuovo sistema che garantisce... Perché ci sarà una prima volta in cui io devo registrare la voce. Assolutamente, sì. Quindi mi chiameranno in banca, immagino. Mi chiamerà la banca, faranno diversi procedimenti. Per assurdo potremmo farlo anche senza chiedere autorizzazione, però per le regole sulla privacy sicuramente. Quindi a questo punto la macchina, il sistema, allora, in questo caso dall'altra parte c'è una persona umana che interagisce con il cliente, la macchina è solo diciamo lo schermo del computer dove ci sono le informazioni. Però la cosa interessante è che da un certo punto di vista la macchina diventa capace come l'uomo, perché se mi chiamo un mio amico, io capisco che è effettivamente il mio amico e difficilmente un imitatore o un truffatore riesce a fare il mio amico. Sì. È ancora più brava la macchina. No, direi che in questo caso è ancora più brava. Ah. Perché non si limita al suono della voce, ma si limita appunto a quei parametri fisici, emozionali che ad occhio non sono, ad orecchio direi, non sono sicuramente riconoscibili. Incredibile. Anche se sento la similitudine della voce, sembra proprio quella persona, mi sembra proprio il mio amico, ma non ho la possibilità come umano di capire i dati fisici e quant'altro. Quindi in questo caso voi dite è impossibile che uno riesca, anche perché vengono fatte un po', cioè nell'interazione è impossibile che uno riesca a barare. Direi di sì. Posso alzare l'asticella rendendo impossibile il fatto di barare. Sì. Quali sono diciamo altre tipologie di servizi o nell'uso quotidiano, dove possiamo utilizzare questa tecnologia? Ma questa tecnologia può essere utilizzata in qualsiasi azienda che ha bisogno di riconoscere i propri clienti e di avere la certezza che sta parlando con i propri clienti. Ad esempio ci sono molte compagnie telefoniche, una su tutte che mi viene in mente è Turkcell, che utilizza appunto questo strumento per evitare le truffe all'interno della propria azienda. Perché e come fa? Ascolta i propri clienti, chiede loro se vogliono essere garantiti, quindi all'inizio sempre il discorso di fare la procedura iniziale. La procedura iniziale, una volta fatta, se qualcuno cerca di chiamare a nome mio, garantendomi o chiedendo lo spostamento di un numero o qualsiasi altra cosa, loro lo identificano e fermano e lo identificano come truffa. Dico Turkcell perché sono stato lì da poco e mi ha impressionato il fatto che erano estremamente soddisfatti, hanno ridotto le truffe praticamente a zero. Pazzesco. E noi utilizziamo tutti i giorni smartphone, tablet, computer. Dicevo all'inizio che abbiamo parlato anche recentemente della possibilità di sostituire il PIN con ad esempio l'impronta digitale, una tecnologia che è stata adottata dall'Apple. Può essere utilizzata questa tecnologia del riconoscimento della voce anche per interagire con gli smartphone? Assolutamente sì, c'è una piccola distinzione da fare, sì. Dipende dove questo software viene installato, se sull'apparato o se in cloud. Sull'apparato riesco a garantire determinati gradi di sicurezza, ma sicuramente per un servizio finanziario di un certo tipo direi no, sconsigliabile. Quindi per accedere al telefono sì, ma per, dipende per fare un bonifico mica tanto. No, assolutamente. Questo è importante, interessante. No. Cioè lei mi sta dicendo che buona parte dell'elaborazione del dato, della voce, avviene dai data center potenti, perché non è una roba semplice. No, non è semplice. E quello che si può mettere su un telefono è, tra virgolette, limitato. Insomma, per quanto potenti oggi siano diventati gli smartphone. Ma automobili? Tipo, invece di usare la chiave, entro in automobile e dico, automobile parti. Se invece Fabio Cantadori, che è il tecnico che è dall'altra parte del vecchio, va nella mia automobile e dice Fabio Cantadori, lui, la macchina non parte. Allora, si può utilizzare? Teoricamente sì. Oggi per quel discorso di connettività che parliamo, che abbiamo accennato poco fa, sarebbe insomma abbastanza complesso. Sì, perché la macchina ha più spazio di uno smartphone, quindi magari si può pensare di elaborare localmente, ma localmente non ho la garanzia, ad esempio non riesco a registrare tutti gli accessi che vengono. Sì, questo è importante. Ecco, noi adesso abbiamo parlato, ci siamo concentrati molto sull'utilizzo della voce come password. Se noi invece ampliamo e parliamo solo del riconoscimento di quello che viene detto, indipendentemente da che lo dica io o che lo dica un'altra persona, questa invece è una tecnologia molto più diffusa e disponibile, o anche in quel caso ci sono dei vincoli? No, direi che questo assolutamente è diffusissimo. Abbiamo molti risponditori vocali di molti clienti, insomma, anche in Italia e nel mondo, che già approcciano e utilizzano la voce per essere guidati all'interno delle informazioni in un risponditore, in un call center, eccetera. Call center. Però faccio sempre l'esempio dello smartphone. È esperienza di molti, non direi comune ancora, che l'interazione vocale con lo smartphone, quindi la capacità di riconoscimento di quello che io dico, non è proprio così evoluta. Dove sta il problema? Ma io direi, sono abbastanza non concorde su questa cosa, perché io lo utilizzo tutti i giorni e evidentemente mi trovo benissimo, ma forse sono un addetto ai lavori e quindi mi ritorna più facile. La differenza e cosa ci sta dietro non è tanto sul fatto di riconoscere la voce. Ci sono alcuni servizi integrati, e quando parlo di servizi integrati evidentemente riesco a svolgere un lavoro a 360 gradi e quindi ne apprezzo la bontà. Oggi il fatto di riconoscere la voce e il fatto che mi venga data una lista, fornita una lista di informazioni, così come se mi facessi una ricerca sul web, è poco significativa, perché non mi risolve il problema. Se parliamo di aziende che oggi hanno già adottato, anche in Italia, ad esempio Mediolanum, loro hanno deciso che volevano innovare, dare un aiuto ai propri clienti, e facendo sì che questo strumento fosse di facile utilizzo. Quindi uno, accedendo all'applicazione mobile, potesse semplicemente dire quant'è il mio strato conto, quanto spese il mese scorso, fammi una ricarica telefonica o quant'altro, e senza dover cercare su un video, grande o piccolo a piacere, dipende dallo smartphone, potessi fare una serie di informazioni. Contestualizzato sicuramente ha un impatto e un feeling positivo. Il fatto di cercare in modo generico porta poco. Parliamo di dettatura, sugli smartphone. La dettatura sicuramente ha raggiunto oggi livelli incredibili. Sì, questo è vero. Cioè, se io dico portami al negozio tal dei tali, la macchina ha capito quello che io... Sì, ma ci sono anche dei servizi, ad esempio, di dettatura. Dettami la mail, e quindi durante la dettatura riesco a fare la punteggiatura, virgola, punto a capo, quindi riesco a formattare la mia lettera, e direi che i gradi di riconoscimento sono elevatissimi, insomma. al di là di troppi disturbi esterni su quello. Però proprio la sensazione che si ha è che quando cerco un assistente virtuale, poi alla fine questo assistente mi deve portare un risultato finale, non una lista di cose. Forse questo è l'impatto che, rispetto ad altri paesi dove queste cose sono più integrate con le applicazioni, dà questo feeling. Cioè, tipo altri paesi, mi cita sempre i soliti Stati Uniti. Ma negli Stati Uniti fanno, sicuramente se voglio prenotare un ristorante riesco a farlo schiacciando un bottone, parlando riesco ad arrivare fino alla prenotazione delle, partendo da un punto di vista generico del mio smartphone, riesco sicuramente a prenotarmi un tavolo nello specifico, cioè, parlando con una macchina? Sì. Riesco ad arrivare a quello. Oggi in Italia non abbiamo applicazioni così integrate e quindi questa forse è la difficoltà. Però parliamo di aziende dove sono contestualizzate, il nostro lavoro al di là di riconoscere le parole è sempre quello di capire il significato, e stiamo sempre più investendo in questo, in questo, in questo, certo, riguardo. Ma abbiamo un problema noi italiani o sono le aziende che offrono i servizi, cioè, che ne so, magari fatichiamo a parlare con le macchine? Perché devo dire la verità, a me gli assistenti vocali fino adesso non è che mi abbiano mai soddisfatto tantissimo, però capisco che ci sono delle potenzialità incredibili. Non è un problema italiano, il problema probabilmente italiano è il fatto che si pensava che mettendo un software uno potesse risolvere tutti i problemi legati all'utilizzo della voce. Non è così, è una questione di cultura, è una questione di conoscenza. All'estero esistono diverse facoltà in università che insegnano come diventare scienziati, perché negli Stati Uniti li chiamano voice scientist. E in Belgio, in Olanda. Però anche in Italia noi avevamo, ma abbiamo ancora, diciamo, che fa parte della vostra azienda, un centro d'eccellenza a Torino, ex Loquendo, oggi Nuance. Assolutamente che, sì. Che dimostra che in qualche modo... Sì, sì, si è sempre lavorato in quel modo, ma la differenza è l'utilizzare la voce per comandare o utilizzare la voce per raggiungere uno scopo. Mi spiego meglio. Sì. Se io sostituisco nel mio risponditore vocale digita 1 per fare questo, digita 2 oppure dimmi 1, dimmi 2, ho risolto poco. Lasciamo stare. Certo, certo. Non cambia nulla. Cosa diversa se entro in un servizio di assistenza al cliente o qualsiasi servizio: caro cliente, come ti posso aiutare? E io senza barriere, senza vincoli, dico senza la mia... 1, 2, 3, 4, certo. Quindi questo vuol dire che le aziende oggi possono aprire tutta la knowledge base che hanno a disposizione per servire i loro clienti senza vincoli. Sì. Quindi senza quei famosi rami dove schiaccia uno, schiaccia due. Senta, prima abbiamo citato le automobili, che mi sembrano un settore che sta guardando, con, visto che su molte altre tecnologie non stanno migliorando molto, ad esempio i motori, io continuo a dire, sono sostanzialmente delle stufe, hanno insomma l'efficienza energetica di una stufa, non è che si sono evoluti così tanto negli ultimi anni, e molti dati dicono che le case automobilistiche stanno guardando alla all'elettronica perché anche molti clienti sono fortemente interessati. Che cosa sta succedendo in questo comparto? Ma in questo comparto è in estrema evoluzione. E noi lavoriamo praticamente, non dico con tutti, ma direi quasi tutti i grandi produttori di automobili, e sempre di più si sente il termine connected car. Quindi al di là del comandare la macchina, alza il volume, abbassa il volume, chiama qualcuno, proprio c'è un concetto di essere connessi al mondo esterno, quindi questo sempre in totale sicurezza, perché interagendo con la voce, interagendo. Ma per fare che cosa? Per accendere la macchina? No, per aumentare la velocità? No, assolutamente no, ma per essere connessi al mondo esterno, quindi cercami questa informazione, manda questa mail a questo signore, oppure chiamalo, leggimi l'SMS, mandami l'SMS, chiamo la mia banca e riesco a fare operazioni mentre guido in modalità semplice. Sì. Senta, queste tecnologie quanto costano? Che allora, se guardiamo a prodotti, voi siete il produttore di Dragon, è un software che io installo sul mio computer, qua stiamo parlando di poche decine di euro, giusto? Qualche centinaio. Qualche centinaio di euro. Però invece le tecnologie che addirittura trasformano la mia voce in password, sono tecnologie molto complesse, molto costose, o anche in questo caso stiamo parlando di tecnologie, non dico alla portata di tutte le aziende, ma insomma abbastanza... Se parliamo di azienda, direi alla portata di quasi tutte le aziende, anzi se non di tutte. Diciamo che le componenti è uno dei grandi vantaggi della voce, che poi una volta che ho messo in piedi il mio sistema non ho bisogno di aggeggi esterni. Per l'impronta digitale, ad esempio, dovrei dotare tutti con un lettore di impronta digitale. Nel caso della voce, certo, qualsiasi microfono oggi presente su un telefono, su uno smartphone, su un tablet, sicuramente... Ah sì, sì, tutti i telefoni sono già pronti. Certo. Una volta fatta e registrata la mia voce in cloud, da qualsiasi dal telefono di casa posso accedere. Quindi questi molto... sono servizi che voi date? Cioè, quindi io mi abbono al servizio? O devo comprare tutto un pacchettone dei server? Si può fare in entrambi i modi, dipende poi dalle tipologie. Se parliamo di istituti finanziari, sicuramente si tengono in casa queste informazioni. Certo, questo... tipicamente. Però può essere fatto in entrambe le modalità. Senta, le faccio una domanda sull'Europa. Queste tecnologie vengono, siamo più o meno alla pari con gli altri paesi, o ci sono paesi che spiccano su altri e le utilizzano in modo folle? Diciamo che nei paesi emergenti sicuramente, essendo partiti da probabilmente zero, le utilizzano molto di più, utilizzano molto di più queste tecnologie. Quindi Est Europa, Turchia, eccetera. Lì assolutamente sì, c'è proprio un uso massivo. Parliamo di Inghilterra, sicuramente il Regno Unito sono molto più avanti, o perlomeno lo utilizzano da molti più anni queste tecnologie. Ahimè, devo dire che se anche guardo la Spagna, che seguivo direttamente, sicuramente lo utilizzano di più. In Spagna tutti i call center, tutti i grandi gestori di telefonia hanno un sistema di interazione con la voce. Non, come dicevo, schiaccia uno pure di uno, ma proprio come caro cliente, come ti posso aiutare. Cioè che è molto più simile all'interazione umana, diciamo. Che è molto più simile all'interazione umana, senza mai ingannare nessuno, perché la macchina è la macchina, l'umano è l'umano. Sì, sì. Cioè si deve capire che è una macchina. Si deve capire che è una macchina. Per quanto l'evoluzione ci permette di avere oggi sintesi vocali che riproducono le emozioni, quindi che siano molto friendly, però si deve capire che è una macchina. Si deve capire che è una macchina. Altrimenti... E in questo caso mi verrebbe da dire... non esagerate troppo con l'evoluzione tecnologica, perché il timore che io ho è che poi ci sostituiate nella lettura del giornale radio. Penso che non accadrà mai, però è rischioso. Lei sorride perché sa che succederà, forse. No, mi è venuto in mente perché abbiamo delle sperimentazioni dove dal mio tablet riesco a leggere il giornale, insomma. Stiamo sperimentando il fatto che quando sono mutato a un quotidiano, diciamo, e sto facendo altre cose la mattina, schiaccio un bottoncino e automaticamente me lo legge. Sì. Quello può essere un valore aggiunto per il quotidiano, sicuramente interessante. Sì. Bene, io ringrazio Agostino Bertoldi per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e buon weekend, a presto. Grazie. La versione integrale dell'intervista che abbiamo realizzato con Bertoldi, abbiamo chiacchierato molto, un'intervista molto interessante, la potete trovare nella nostra versione podcast. Tutte le informazioni sono su www.radio24.it. Chiudiamo questa puntata come sempre con uno sguardo su domani. Domani che cosa ci sarà sul Sole 24 Ore, in particolare su Nova, il settimanale di innovazione guidato da Luca De Biase. Luca, bentornato a 2024. Ciao a tutti. A cosa è dedicata la copertina questa settimana, Luca? Questa settimana c'è un ospite illustre che è Peter Higgins, un matematico abbastanza noto per la sua capacità di divulgare la sua disciplina, che racconta la teoria delle reti e le logiche matematiche che la governano, in modo tale che fa vedere la bellezza della relazione tra la matematica, quello che succede davvero nel mondo e la sua comprensibilità. Insomma, è certamente un pezzo da tifoso della sua materia, ma che fa intravedere quanto sia fondamentale per il successo di molte iniziative un approccio matematico. La sua esemplificazione va naturalmente a parare poi sui social network e sulle grandi piattaforme online, e fa vedere come il successo di Google e poi di Facebook siano stati fondamentalmente dovuti all'apporto di matematici di grandissima bravura che hanno scritto gli algoritmi che governano quelle piattaforme. E questo indubbiamente è un valore in qualche modo poco raccontato e che vale la pena ogni tanto di sottolineare. Una materia così importante. È vero, è vero. Si dice spesso che Google e Facebook siano società di ingegneri, quindi va fatta anche questa aggiunta: sono società di ingegneri e di matematici. E di matematici, certo. Esatto. Oltre a questo, vabbè, ci sono tanti argomenti che affrontate, vogliamo ricordarne uno in particolare? Beh, c'è un pezzo molto bello di Luca Tremolada sul valore economico degli open data. Open data vuol dire dati che vengono raccolti nel corso delle funzioni tipiche della pubblica amministrazione e che vengono resi aperti e disponibili a chi ne voglia fare uso e valorizzarli. Il pezzo comincia con la storia della Climate Corporation, che è una startup che è stata acquistata una settimana fa dalla Monsanto per quasi $1 miliardo. Perché che cosa c'ha questa Climate Corporation? Ha raccolto tutti i dati sul clima delle varie parti del terreno agricolo degli Stati Uniti, 30 anni di dati sul clima e i raccolti, e li ha incrociati con appunto gli open data della pubblica amministrazione americana, che riguardano le caratteristiche dei terreni, per cui alla fine tu hai una mappa del valore economico e della capacità produttiva del terreno agricolo americano, di tutto il grande territorio degli Stati Uniti, miglio quadrato per miglio quadrato. Evidentemente è un valore che la Monsanto ha pensato di portarsi a casa pagandolo $1 miliardo. Sì, a fronte di questa cosa c'è una ricerca della McKinsey che fa un calcolo del valore che si potrebbe tirar fuori dai dati pubblici una volta che siano resi aperti, e McKinsey parla di grossissimi valori, economie che possono nascere da 1.000 miliardi negli Stati Uniti, 1.700, quasi un miliardo, quasi 1.000 miliardi in Europa, 1.700 nel resto del mondo. Sono chiaramente delle stime che gli esperti da McKinsey riescono a fare, che a me non riuscirebbero tanto facili, ma che comunque danno l'idea di una grande economia che verrà fuori dall'utilizzo e la valorizzazione di questi dati, che per adesso le pubbliche amministrazioni ci sono tenute sulle scrivanie e che invece per motivi vari stanno rendendo aperti. In Europa è una linea di sviluppo significativa della Commissione, che dice quello che è stato raccolto con il denaro pubblico deve tornare al pubblico. Sì, esatto, anche perché in questo caso tutte le aziende sono ad armi pari, perché questi sono dati aperti e pubblici e tutti li possono utilizzare. Ecco, esatto. Luca, grazie per essere stato con noi, buon fine settimana e buon lavoro, a presto. Grazie Enrico, a tutti. E così concludiamo questa che è la versione podcast del 2024, con le interviste in versione integrale. Quando riusciamo vi offriamo anche questo valore aggiunto. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie anche per i messaggi che ci scrivete, per tutta l'attività social network che fate su Twitter o su Facebook, anche se non sono tantissimi quelli attivi su queste piattaforme, attivi naturalmente nei nostri confronti, anche noi non siamo particolarmente attivi e maniaci dei social network, anche se ne comprendo i vantaggi e anche a volte il divertimento. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana, come sempre al sabato a partire dalle 15 fino alle 16, e poi la domenica dopo il GR delle 23 e fino a mezzanotte, oppure come sempre sulla versione podcast. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.